Allora, io contavo, avevo avvertito che mi sarebbe stato gradito dire qualche cosa, ovviamente dico non di nuovo perché è un testo conosciuto, tutti ci sarà capitato di imbatterci a scuola o in altre sedi in un testo come il discorso sulla disuguaglianza. Io quello che volevo fare è proporre molto rapidamente, credo una mezz'oretta, no? Cioè di tempo. Sì, sì, sì. Ecco. E in qualche modo una lettura non trasversale, ma insomma mettendo in risalto alcune cose su cui appunto diciamo dico non sempre ci si sofferma, anche se sono cose. Ecco, amica Gabriella dico, ricordava l'incipit della seconda parte del discorso sulla disuguaglianza, no? Quello in cui si dice che il primo che cintato un terreno pensò di affermare questo è mio e trovò persone abbastanza ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Ecco, attenzione alle parole. Fu il vero fondatore, colui che riesce a far riconoscere il diritto di proprietà, è il vero fondatore della società civile. Qui siamo all'incipit della seconda parte del discorso sulla disuguaglianza, cioè quando le cose sono arrivate a un certo punto, e lo dice subito dopo Rousseau. Quanti delitti, quante guerre, quante uccisioni, quante miserie, quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti e colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: guardatevi dall'ascoltare questo impostore. Se dimenticate che i frutti sono dei tutti e che la terra non è di nessuno, voi siete perduti. E questo è un passo che molte volte è stato citato nella seconda metà del Settecento, in tutto l'Ottocento, dal socialismo utopistico. Però il passo continua, e dice delle cose interessanti di cui non si può non tener conto. Ma è molto probabile, continua Rousseau, che allora le cose fossero già arrivate al punto di non poter durare così com'erano. Infatti, quest'idea di proprietà, dipendendo da parecchie idee antecedenti che non sono potute nascere se non in successione di tempo, non si formò tutta un tratto nello spirito umano. Fu necessario fare molti progressi, acquistare molte abilità e molte cognizioni, trasmetterle ed arricchirle di generazione in generazione prima di giungere a quest'ultimo termine dello stato di natura. Cioè la nascita della proprietà, la coltivazione della terra a cui la nascita della proprietà è legata, ovviamente, ecco, è l'ultima fase dello stato di natura. Risaliamo dunque più lontano e cerchiamo di riunire sotto un'unica visione questa lenta successione di avvenimenti e di conoscenze nel loro ordine più naturale. Cioè la proprietà nasce quando era ineluttabile che nascesse, no? E appunto dico come un qualche cosa di necessario, perché le cose oramai nella storia dell'umanità o di una parte rilevante dell'umanità, cioè l'umanità cosiddetta civilizzata, non quella dei selvaggi, di cui oramai si aveva, come è noto, abbondante esperienza, nella metà del Settecento, da almeno 2 secoli e mezzo, no? La nostra civiltà si era confrontata appunto con le civiltà selvagge, ecco. E quindi non si poteva tornare indietro, era ineluttabile. Con la proprietà dobbiamo fare i conti. Cioè, intanto sgombriamo il terreno dagli equivoci. Rousseau non è anarchico, Rousseau non è contro la proprietà, eh? Il contratto sociale è chiarissimo, cioè non è oggetto della cosa di oggi, ma è delle ineguaglianze che ci sono, è normale che ci siano in una civitas. Si richiedono però ben altre condizioni, dalle condizioni di vita delle società europee di metà Settecento che lui critica. E il discorso sulla disuguaglianza è un discorso proprio di critica della società del suo tempo, fatto in che modo? Fatto ricostruendo quella che lui chiama una storia congetturale, una raisonnée, una storia ragionata dell'uomo, cioè non fa lo storico delle civiltà, non fa il paleontologo, no? Lui dice: io sto costruendo un modello. Lévi-Strauss ne ha fatto il padre dello strutturalismo e dell'antropologia culturale, eccetera, eccetera. Adesso non ci soffermiamo su queste cose, ma lui costruisce un modello consapevolmente astratto. A qualche punto arriva a dire: lo stato di natura, noi non sappiamo nemmeno se c'è stato veramente, se si può dire che l'uomo sia mai stato. Ecco, però è una fictio che noi facciamo per cercare di vedere antropologicamente che bestia è l'uomo. E allora io me la caverò con 3-4 citazioni che mi sembrano rilevanti per fare un minimo di discorso filato. Intanto, appunto, questa storia ragionata, qualche autore, e io condivido questo punto di vista, ha fatto un parallelo con il trattato sul mondo di Descartes, no? Che c'entra il trattato sul mondo di Descartes? Se qualcuno ha fatto qualche studio filosofico a scuola, qualche bravo professore ha letto qualche pagina, è un testo affascinante, no? Sono poche pagine, una trentina di pagine, in cui si fa una storia del mondo. Cioè Cartesio parte dalla sostanza estesa, poi la materia, il movimento, e vede come combinando queste due cose viene fuori il mondo, una storia congetturale del mondo per vedere strutturalmente come è fatta la natura, di che è fatto il mondo. Quello che fa Rousseau è la stessa cosa applicando all'uomo e alla storia dell'uomo. Ecco, allora riprendiamo appunto in questa sua storia congetturale, questo stato di natura che noi non sappiamo nemmeno se è esistito, non ha importanza, dice Rousseau, no? Però se noi dovessimo immaginare l'uomo così com'è, come sarebbe, come noi lo vedremmo, se potessimo vederlo spogliato di tutti gli elementi culturali, di civilizzazione, eccetera, eccetera, ce lo possiamo immaginare in un certo modo. Come se l'immagina? Che cos'è la natura umana? No, in genere Rousseau è appunto il rimpianto della bontà, dello stato di natura, dell'uomo felice, un po' ingenuo, bestione, eccetera, insomma mansueto, a differenza dell'uomo naturale di Hobbes, che era brutto e cattivo, il fanciullo robusto, il puer robustus di cui parla nel De Cive Hobbes, no? Ecco. E che vive, no, questo è vero, diciamo, l'uomo nello stato di natura è una sorta di Rousseau in questo è una sorta di Nietzsche alla rovescia, no? Mentre dopo appunto il mondo dell'etica civile e borghese c'è il superuomo che è al di là del bene e del male, l'uomo nell'ipotesi dello stato di natura rousseauiano non è al di là ma al di qua, è precedente al bene e al male, è innocente. Bene e male nascono con la società, con le convenzioni e con lo sviluppo delle facoltà umane. Non è pienamente razionale l'uomo nello stato di natura, la ragione è una acquisizione storica. Decine, centinaia, migliaia di secoli arriva a ipotizzare, sterminate antichità. Allora, la terra, scrive Rousseau all'inizio della prima parte, abbandonata alla sua naturale fertilità e coperta di immense foreste che la scure non ha mai mutilato, qui gli ambientalisti immagino, offre a ogni passo alimenti e ricovero agli animali di tutte le specie. Gli uomini, sparsi fra di essi, questi animali, no? Osservano ed imitano la loro industriosità e si elevano così fino all'istinto delle bestie. Si elevano sino all'istinto delle bestie. Con questo vantaggio, che mentre ogni specie animale possiede solo l'istinto che le è proprio, l'uomo, non avendone forse nessuno di istinto, non ha una sua natura definita, l'uomo, nello stato di natura, per Rousseau. L'uomo, non avendone forse nessuno che gli appartenga, se li appropria tutti, gli istinti degli altri animali. di cui ha esperienza. Si nutre indifferentemente della maggior parte degli alimenti diversi che gli altri animali si spartiscono ed è quindi fra tutti quello che trova più facilmente il suo cibo. Vedete, questa inferiorità dell'uomo nello stato di natura è quella molla che mette in moto il meccanismo che lui chiama della perfettibilità, che consente all'uomo appunto di svilupparsi storicamente, di costruire la società con tutte le conseguenze, eccetera. Qui questo non è un passo qualsiasi su cui non troppo spesso ci si sofferma, no? Cioè l'uomo è meno delle bestie, perché gli altri animali già sanno per istinto, hanno una loro natura definita, l'uomo no. E questa non è un'affermazione nuova nell'età moderna. Che ne so, ritroviamo Pascal, lo troveremo in Nietzsche, lo ritroviamo in Pascal, no? Che cos'è il costume, la prima, la seconda natura? Ma non sarà che la prima natura è anch'essa una seconda natura, queste scatole cinesi per cui non c'è mai un uomo originario. Il problema si è posto. Pensate a Bruno, pensate a Pico, no? L'orazione sulla dignità dell'uomo, dove dice che l'uomo è stato creato da Dio, Adamo è stato creato da Dio, senza un indiscrete opus imaginis, senza una sua configurazione definita. L'uomo è proteo, è camaleonte, può essere tutto e niente. Può avere successi enormi, può diventare come Dio, no? E può anche essere il più abietto degli animali, può comportarsi in una maniera, appunto, cioè è possibile il successo enorme, può indiarsi, come le intelligenze superiori, o può essere il più bieco e il più abietto degli esseri. Ecco, questa è una delle dimensioni della modernità che noi spesso ci scordiamo, cioè l'uomo è un animale che si inventa. In qualche modo. E Rousseau si muove in questa falsariga. Se usciamo da questa prospettiva, io credo, non si capisce il senso, non dico del discorso della disuguaglianza, ma di tutta l'opera di Rousseau, del contratto sociale, della nuova Eloisa e dell'Emilio. Cioè il programma che lui ha è quello di costruire, parola sinistra per il Novecento, un uomo nuovo, un nuovo uomo. Cioè l'uomo è plasmabile, l'uomo è in qualche modo cultura, c'è molto poco di natura nell'uomo. Comunque, vediamo come procede con altre due o tre citazioni il discorso, questa storia ragionata dell'umanità. Abbiamo accennato al puer robustus, no? All'uomo, al fanciullo violento, all'uomo forte ma appunto diciamo irresponsabile, aresponsabile, no, innocente perché al di qua del bene e del male, quindi la critica di Hobbes in questo senso. E poi c'è tutto il divenire, su cui ovviamente non ci soffermiamo, allo svilupparsi delle facoltà, la nascita della ragione nell'uomo, che è definita da questo contro natura, no? La ragione è contro natura, nella natura c'è spontaneità, la ragione è quanto di meno spontaneo ci sia. Come è, appunto, dico, non spontaneo il linguaggio. Lui fa il paragone, il saggio sull'origine delle lingue, come è noto, fra melodia e armonia. La melodia come naturale, l'armonia come ricerca di connessioni, appunto, armoniche, che non sono immediatamente percepibili, occorre forte cultura per intenderla. E, appunto, il linguaggio che, fino ad arrivare, appunto, per Rousseau, alla scrittura, che è il massimo dell'artificio, il massimo dell'artificio. È naturale il linguaggio semplificato degli uomini primitivi, no? Poi il linguaggio si complica, c'è una dialettica tra sviluppo intellettuale e sviluppo del linguaggio, no? La ragione si sviluppa pienamente, e quindi abbiamo, appunto, è possibile a quel punto anche la scrittura. E dove c'è il famoso parallelo nel saggio sull'origine delle lingue tra appunto il linguaggio orale e il linguaggio scritto, e appunto il linguaggio scritto lo prenderà poi Derrida nella grammatologia, come è noto, è il linguaggio scritto come onanismo, per dire, come artificio. Ecco, allora andiamo a grandi falcate, perché l'importante è seguire un filo, poi casomai qualche cosa. Ecco, allora, comunque si creano tutta una serie di convenzioni, nascono le piccole società, no? Sono fenomeni, dice Rousseau, che potevano non accadere, no? Potevano anche non verificarsi, si possono ipotizzare delle catastrofi che hanno isolato un pezzo di umanità in un'isola, eccetera, per cui nasce il linguaggio, nascono barlumi di socialità, il riconoscimento reciproco, tema molto alla moda in questi anni, ecco, e fino a che, appunto, dico, si arriva al punto in cui, dice Rousseau, ed ecco tutte le nostre facoltà sviluppate, siamo già a metà della seconda parte. La memoria e l'immaginazione in gioco, l'amor proprio risvegliato, la ragione reso attiva e lo spirito portato quasi al culmine della perfezione che può attingere. Ecco tutte le qualità in azione, la posizione sociale e la sorte di ogni uomo stabilite non solo in base alla consistenza dei beni, alla possibilità di servire e di nuocere, ma anche allo spirito, alla bellezza, alla forza e alla destrezza, al merito o ai talenti. Ed essendo queste qualità le sole che potevano attirare la considerazione, bisognò ben presto possederle o stimolarle. Questa è la novità. La società richiede la simulazione. Bisognò, nel proprio interesse, mostrarsi diversi da ciò che si era in realtà. Essere e parere diventarono due cose del tutto diverse. E dalla distinzione scaturirono il fasto imponente, l'astuzia ingannatrice e tutti i vizi che ne formano il corteo. D'altro lato, ecco l'uomo che prima era libero e indipendente, assoggettato per così dire a tutta la natura da una quantità di nuovi bisogni e soprattutto assoggettato ai suoi simili di cui diventa in certo senso schiavo, perfino quando ne diventa il padrone, appunto, sentivamo prima, ricco ha bisogno dei loro servizi, povero ha bisogno del loro aiuto e la mediocrità non lo mette in grado di farne conto. Ecco, questo è il dramma, no? Francese poi suona suggestivo, no? L'antitesi fra l'essere e l'apparire, etre paretre, no? L'opposizione con una assonanza che dà anche una efficace. Oh, quindi l'uomo si trova a vivere una vita inautentica, sappiamo Marcuse, eccetera, no? Dico il Novecento tedesco, dico quanto su queste cose si è dilungato, sull'autenticità, l'inautenticità, eccetera. Ecco, e fino a che arriviamo, e siamo già alla fine, perché io poi volevo accennare in appendice poi a un'altra cosina. E quindi appunto nasce la proprietà, abbiamo visto, si sviluppa, aumentano le disuguaglianze e, dice Rousseau, è qui l'ultimo sbocco della disuguaglianza, è il punto d'arrivo che chiude il circolo toccando il punto da cui siamo partiti. Cioè si torna alla fine a una trova uguaglianza, ma a una uguaglianza di disperati appunto, vedremo. Qui tutti i privati tornano ad essere uguali, perché non sono niente. E i sudditi, non avendo altra legge oltre la volontà del padrone, né il padrone altra legge oltre la volontà, né il padrone altra norma oltre le proprie passioni, le nozioni relative al bene e i principi di giustizia tornano di nuovo a svanire. A questo punto tutto si riporta alla sola legge del più forte. E quindi a un nuovo stato di natura diverso da quello con cui abbiamo cominciato, in quanto l'uno era lo stato di natura nella sua purezza, mentre quest'altro è il frutto di un eccesso di corruzione. Quindi la civiltà come corruzione, no? E fino a che l'ultimo capoverso del discorso sulla disuguaglianza, che ci permette una piccola appendice che a mio avviso è illuminante. Anche queste sono passi, oh, ecco, tenete presente questo circuito, questo ritorno, cioè una cosa, il passo famoso che Engels, su cui si soffermò Engels, proprio citando Rousseau. Ecco, dopo aver ricordato che un conto la disuguaglianza fisica delle caratteristiche personali individuali, un conto quella morale, quella fittizia, frutto della cultura, della civilizzazione, dell'evoluzione della specie, ecco, ne consegue allora che la disuguaglianza morale, autorizzata dal solo diritto positivo, è contraria al diritto naturale ogni volta che non risulta in proporzione con la disuguaglianza fisica, dove fisica è nel senso di fusis, è naturale, disuguaglianza di spontaneità di nascita, di attitudini, di modo d'essere, non fisica di statura o altro. Distinzione che determina a sufficienza ciò che si deve pensare in proposito della specie di disuguaglianza che regna fra tutti i popoli civilizzati, poiché ovviamente è contro la legge di natura, comunque vogliamo definirla, che un bambino comandi a un vecchio, che un bacille guidi un saggio e che un pugno d'uomini rigurgiti di cose superflue, mentre la moltitudine affamata manca del necessario. Questo è il famoso finale, la chiusa, appunto, del discorso sulla disuguaglianza. E lascia aperto il problema. Non è che dice, vabbè, ma allora come se ne esce? E che facciamo? Ecco, non dice nulla. Poi dopo qualcosa la dice. Noi non entreremo nel contratto sociale, e ce la caveremo conclusivamente, casomai ci si torna adesso, dopo eventualmente dico l'intervento di Alberto Burgio, c'è un momento meno noto, cioè gli specialisti un po' lo conoscono, no? Quello della preparazione del contratto sociale, no? C'è il manoscritto di Ginevra, c'è la prima versione del contratto sociale, dove c'è un capitolo famoso, il secondo capitolo del primo libro del contratto sociale, nella prima stesura, che ha appunto una particolare caratteristica, è di essere una confutazione di un breve testo di Diderot. Il testo di Diderot è l'articolo diritto naturale, che era uscito nel 1955, l'anno scorso, e l'anno stesso in cui era uscito il discorso sulla disuguaglianza, dove lì appunto Diderot in maniera suggestiva riprende il fantasma dell'uomo naturale brutto e cattivo di Hobbes, no? Il puer robustus, no? E diventa, è simpatico questo in un articolo di enciclopedia, no? Che c'è questa sorta di esposizione dialogica, no? E diventa l'interlocutore di Diderot, no? Diventa il raisonneur violent, il ragionatore violento, l'interlocutore violento. E dice, noi ovviamente questo qua lo dobbiamo egorgere, dobbiamo scorzare, dobbiamo fare fuori, però un attimo, prima di farlo fuori dobbiamo rispondere alle sue ragioni. Cioè, insomma, dico, la situazione appunto è quella che è, si tratta di trovare appunto, dico, una forma di società che in qualche modo sia sostenibile. E dice il ragionatore violento, sento che io porto lo spavento e il turbamento in mezzo alla specie umana, ma bisogna o che sia infelice o che io faccia la infelicità altrui. Allora, qui c'è il solito fantasma dell'utilitarista estremo, del sofista, diciamo, del primo libro della Repubblica di Platone, no? L'utilitarista estremo che si oppone a Socrate, no? E dice, no, la giustizia non c'è, c'è l'utile, il mio utile. Anzi, arriva a dire il ragionatore violento, o uomini, è a voi che io faccio appello, chi è colui tra di voi che sul punto di morire non riscatterebbe la sua vita alle spese della più gran parte del genere umano se fosse sicuro dell'impunità e del segreto? Questo è l'argomento complice, no? Il colmo dell'utilitarismo. Sicuro dell'impunità, se mi si dà l'immortalità, in cambio, che ne so, di un miliardo di esseri umani, ma non lo saprà mai nessuno, non uno tsunami, una catastrofe, un meteorite, no? Ecco, però io continuo a vivere, va bene? Chi non accetterebbe questo patto? Ecco. Oh, la risposta di Diderot è la legge naturale. Dobbiamo obbedire alla legge naturale. Ma sta legge naturale, dice il ragionatore violento, ma perché la devo obbedire? Che interesse ho? E poi come la conosco? Diderot dice che la legge naturale la posso conoscere consultando la volontà generale. Lì è Diderot che introduce quella che poi diventerà la volontà generale di Rousseau. È la volontà generale del genere umano che noi possiamo conoscere, pensate un po', questo dice al ragionatore violento, attraverso un atto puro dell'intelletto che ragiona nel silenzio delle passioni e dei pregiudizi. È una parola. E come lo convinci l'interlocutore violento, no? E questo risponde Rousseau. Nella prima versione, appunto, di questo capitolo, ce la caviamo con un paio di citazioni e concludiamo, per vedere, appunto, dico come, in qualche modo, questo è un po' un trade union tra il discorso sulla disuguaglianza e la risposta definitiva che poi dà nel contratto sociale. Cioè, questo momento dialettico, cioè problematico, in cui ancora ha il sapore, no? Qui siamo nel 56-57, dico queste... questo paio di citazioni che prendiamo, in cui lui sta elaborando il contratto sociale, e poi significativamente questo capitolo cadrà, cioè non sarà utilizzato, proprio perché riprende passi dell'articolo Diritto naturale di Diderot, comprese le citazioni fra virgolette del ragionatore violento, no? Ed è senza nominare Diderot, l'articolo dell'Enciclopédie, e appunto dico, elabora la sua posizione. Allora dice, oggi, dice Rousseau, e qui riconoscete proprio il sapore del discorso sulla disuguaglianza, erano roba di un paio d'anni prima, quindi la dolce voce della natura non è più per noi una guida infallibile né uno stato desiderabile, l'indipendenza che ci ha allargito, la pace e l'innocenza ci sono sfuggite per sempre prima che potessimo gustarne le delizie dello stato di natura. Preclusa la pace, eccetera, le dolcezze all'ottusa sensibilità degli uomini primitivi, la felice vita dell'età dell'oro sfuggì nei tempi che seguirono all'attenzione degli uomini evoluti e restò sempre una condizione estranea alla stirpe umana, che non la riconobbe quando poteva goderla e la perse quando avrebbe potuto conoscerla con tutte le sue facoltà di sensibilità e di intelligenza perfezionati. Questo è il dramma dell'umanità per Rousseau. E quindi vedete come viene ripreso, no? Proprio il tema della... Saltiamo, eccetera, quindi siamo alla penultima citazione. Ecco, e qui appunto critica il filosofo che per eccellenza appunto era Diderot, che ci possiamo, il filosofo mi rimanderà allo stesso genere umano, il solo che abbia veste per decidere, in quanto nutre una sola passione, il maggior bene di tutti, eccetera. Però ecco, e questo dice Rousseau, ma insomma dico, come lo convinciamo sto ragionatore violento? No, dico, quando mai riusciremo a fargli vedere che ha interesse a identificarsi con la volontà generale del genere umano in quanto tale? E qui appunto c'è appunto un'osservazione, dico, Rousseau è anticosmopolita, no? C'è una citazione che segue, dico, è molto eloquente. Di qui si vede cosa si deve pensare di quei pretesi cosmopoliti che, riconducendo il loro amore per la patria all'amore per il genere umano, si vantano di amare tutti per essere in diritto di non amare nessuno. Quindi vedete, dico, come no, ma dico, come poi, dico, il paranoico Rousseau, eccetera, insomma, dico, avesse delle finalità di concretezza. Ciò che il ragionamento si dimostra in proposito è pienamente confermato dai fatti, e per poco che si risalga all'antichità remota è facile vedere che le sane idee del diritto naturale della fraternità comune di tutti gli uomini si sono diffuse piuttosto tardi e hanno progredito nel mondo così lentamente che solo il cristianesimo, lo dicevamo prima, le ha generalizzate a sufficienza. E nel famoso capitolo poi sulla religione civile dirà che appunto il cristianesimo, con la sua etica astratta, non poteva non nascere molto tardi, quando l'umanità poteva essere in grado di capire queste cose. E qui siamo all'ultima citazione. Come se ne esce fuori? Come facciamo a convincere il ragionatore violento che non deve desiderare per il proprio bene il male della maggior parte dell'umanità? E dice Rousseau, ma benché fra gli uomini non vi sia una società naturale e generale, benché divenendo socievoli diventino anche infelici e malvagi, divenendo socievoli divengono infelici e malvagi, benché le leggi della giustizia e dell'uguaglianza non contino nulla per chi vive a un tempo nella libertà dello stato naturale, sotto il giogo dei bisogni propri della società, invece di pensare che per noi non ci sia né virtù né felicità e che il cielo ci abbia abbandonati senza soccorso al decadimento della specie, sforziamoci di ricavare dal male stesso la medicina che deve guarirlo. E qui attenzione, questa è una chiave di lettura fortissima per tutto il resto della produzione di Rousseau. Cioè, sforziamoci, questa sorta di omeopatia, no? Ha scritto bellissime pagine sulle remèdes dans le mal, Starobinsky, no? Ricaviamo dal male stesso la medicina che deve guarirci. Correggiamo, se possibile, i difetti dell'associazione generale, quella del genere umano astratto, con nuove forme di associazione. E come le facciamo queste nuove forme di associazione? Come ce lo porti dentro il ragionatore violento? Il nostro impetuoso interlocutore, dice Rousseau, può giudicare i risultati da sé. Mostriamogli, qui c'è la bella traduzione di Maria Carin, appunto, nell'arte condotta a perfezione, il risanamento dei mali che l'arte ai suoi inizi apportò alla natura. Mostriamogli tutta la miseria dello Stato che credeva felice, tutta la falsità del ragionamento che riteneva valido il ragionatore violento. Qui è molto più sintetico l'originale di Rousseau. L'arte condotta a perfezione, l'art perfectionné, cioè l'artificio, l'intervento umano, quello che l'uomo, un uomo primitivo senza qualità, l'uomo innocente al di qua del bene e del male, senza avere istinti suoi determinati, se li inventa imitando gli animali e diventando molto più complesso e sviluppato e infelice degli animali, va bene? Quello che si deve fare, appunto, è non vivere più nel rimpianto di una mitica natura, ma rompere il cordone ombelicale con la natura, fare una sorta di autocoscienza della propria natura indefinita e capire tutte le potenzialità che c'è in questo, rendersi conto che l'uomo, come l'uomo di Pico della Mirandola, può essere tutto, quindi può scegliere il suo modo di essere. Rompere, deve diventare adulto, l'uscita dalla minorità di Kant di pochi anni dopo. L'uomo deve inventarsi di nuovo, rompere, rendersi conto che è frutto dell'artificio, uscire dalla coscienza infelice, dalla lacerazione tra lo stato civile e lo stato di natura reale o presunto, comunque mitico, comunque un rimpianto, rinunciare a cercare di mettersi le scarpine di quando aveva 2 anni che non gli entreranno mai, diventare adulto, prendere coscienza di sé, reinventarsi e quindi vivere nell'art perfectionné, nell'artificio portato alle estreme conseguenze. Allora capite come il contratto sociale, quando uno legge i primi capitoli del contratto sociale, qui deborda la discorsa sulla disuguaglianza, deve tenere presente questi passaggi. Non è un'opera contrattualista come quelle di Locke, di Pufendorf, eccetera, eccetera, dei classici del giusnaturalismo moderno, è tutta un'altra cosa. Cioè è la costruzione di una forma di società con una sua architettonica, con una sua educazione degli, appunto, ricordava Gabriella il grande insegnamento di Karen al riguardo, no? E l'uomo appunto deve prendersi in mano, rendersi conto che è artificio, cioè che è semplicemente autocreazione, e portarla fino in fondo questa autocreazione consapevolmente in una maniera che coinvolga effettivamente tutti, in società determinata, non in confronto alla specie umana. E quindi se il mio zelo nell'impresa non mi acceca, non c'è da dubitare che con un animo forte, un retto sentimento, questo nemico del genere umano non finisca col ripudiare il suo odio e i suoi errori, che la ragione che lo portava fuori strada non lo riconduca all'umanità, che non impari a preferire al suo interesse apparente il suo interesse ben inteso. E non divenga buono, virtuoso, sensibile, infine, e per dirla tutta, invece del feroce brigante che si proponeva di essere, il più saldo sostegno di una società bene ordinata. Così si conclude quel capitolo, appunto, rimasto poi a parte, inedito nel manoscritto di Ginevra, mai ripreso nel contratto sociale. Ma abbiamo, credo, una chiave importante per leggere poi contratto sociale che dà il modello di società. Tenete presente che contratto sociale, Emilio e Nuova Eloisa escono nel giro di 3 anni. Cioè, quindi questa trilogia dà uno il modello costituzionale politico di come deve essere il cittadino, l'Emilio la formazione individuale dell'uomo nuovo, e Julie, una Nouvelle Eloise che è l'educazione sentimentale del tempo, nel famoso romanzo con il triangolo, cioè tutte cose che sappiamo tipiche del romanzo settecentesco. Vi ringrazio.